Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Rapidi con le informazioni, il sito radio24.it. Lì troverete, oltre alla possibilità di scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione, anche il mio blog Guardie o Ladri. Seconda informazione, la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, da ieri abbiamo cominciato a parlare di un tema fondamentale, forse non ce ne rendiamo conto abbastanza, ma ieri abbiamo fatto anche un esempio concreto. Vale a dire 12 milioni di bicchieri di plastica che si suppone siano al cadmio, intanto per sicurezza sono stati prelevati da tutte le filiali di questa grande catena alimentare distributiva che c'è in Italia, perché il sospetto è che appunto il materiale usato non sia quello giusto. Di cosa parliamo dunque? Di ambiente violato, e lo facciamo attraverso il rapporto Ecomafia, del quale appunto ieri abbiamo parlato con Antonio Pergolizzi, che è il coordinatore dell'osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Rapporto Ecomafia che è stato bellamente ignorato da quasi tutte le testate, parliamo di carta stampata, di questo paese. Un po' meglio è andato con la TV e la radio, ma perché fa più scena, come dire, inquadrare un sacchetto della spazzatura per terra piuttosto che poi andare a vedere cosa c'è dietro l'Ecomafia. Cosa c'è? Lo dice la parola stessa: mafia, le grandi organizzazioni criminali. Un dato stimato da Legambiente parla di 20 miliardi di euro il giro d'affari annuo e 78 reati al giorno. Allora, oggi continuiamo a parlarne con chi? Innanzitutto con Lorenzo Parlati, che è presidente di Legambiente Lazio. Buongiorno Parlati. Salve, buongiorno a tutti. E poi con Sergio Cannavò, che è vicepresidente di Legambiente Lombardia, responsabile per il settore legalità e ambiente. Buongiorno Cannavò. Buongiorno a tutti. Allora Parlati, io direi di partire proprio da lei, chiedendole: qual è la situazione nel Lazio? Io devo dire che nel passato me ne sono occupato soprattutto per la disastrosa e disarmante situazione dell'ex Agropontino, comunque di tutta la zona della provincia di Latina. Vorrei che lei illustrasse un po' la situazione nella sua splendida regione, che poi è anche la mia. Ma il Lazio quest'anno scala la classifica per illegalità e illeciti ambientali del nostro rapporto Ecomafia, si piazza al secondo posto in Italia, quindi situazione molto preoccupante, con una decina sostanzialmente di reati che si compiono ogni giorno. Sono reati che vanno su più fronti. I due, diciamo, che fanno alzare i numeri in realtà riguardano da un lato i furti di opere d'arte, visto che nel Lazio c'è Roma e certo, evidentemente da questo punto di vista. No, no, ma non è un aspetto, non è un aspetto di secondo rilievo, perché ecco, perché i furti di opere d'arte, voglio dire, ormai sono su commissione delle grandi mafie, quindi ci lucrano in una maniera pazzesca. Ha fatto bene a segnalarlo. Certamente sì, e l'altro fenomeno è invece legato a illeciti che riguardano la fauna, che fa salire, diciamo, quest'anno la nostra regione al secondo posto. Rimane molto preoccupante invece però la situazione dei cicli più tradizionali, chiamiamoli così, di illeciti ambientali, quindi quelli legati al cemento, certo, abusivo o più o meno abusivo, perché ormai insomma il cemento in molti casi è legale, visto che le amministrazioni e le mafie insomma al loro interno vedono corrompere funzionari delle amministrazioni per cambiare addirittura i piani regolatori. Noi nel Lazio, per esempio, nel Sud Pontino, uno dei casi che viene citato in questo rapporto Ecomafia riguarda delle villette costruite a fianco al parco del Circeo, che dovevano essere delle case di cura, di riposo per anziani, e che invece sono in realtà delle villette di tutt'altra natura, ma certo. Unità immobiliari. Sì, sì, sì, ma infatti sono temi che abbiamo anche affrontato in questa trasmissione recentemente. Ricordo, abbiamo avuto anche ospiti alcuni sindaci laziali che sono coinvolti in operazioni simili a quelle che lei sta descrivendo, e devo dire c'è sempre una ragione, no? C'è sempre una ragione, c'è sempre un ricorso al TAR pronto a partire, c'è sempre un ricorso poi eventualmente in appello al Consiglio di Stato. Nel frattempo passano 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni e le opere da abusive diventano miracolosamente sanate. Sì, in questo caso diciamo che i primi gradi di giudizio già si sono compiuti, addirittura insomma nell'ultima sentenza che è stata pronunciata è stato negato agli acquirenti di quelle abitazioni la possibilità, diciamo, di ritenersi truffati. Il giudice che ha fatto la sentenza gli ha detto espressamente che devono dimostrare che non fossero a conoscenza di quanto stava avvenendo, cosa insomma evidentemente abbastanza difficile, certo, un po' certo, come il caso certo, di Riano, certo. Un altro paesino ridente della campagna romana dove c'erano centinaia anche in quel caso di case che dovevano essere rurali e che invece erano ville con piscina. Assolutamente, assolutamente. Allora io a questo punto passerei a Sergio Cannavò, perché come ha scritto anche appunto Saviano, che citavo ieri in un ampio e articolato servizio su Repubblica, il Nord, il tranquillo Nord, in realtà è oggi un proscenio spettacolare per alcune operazioni, per molte operazioni probabilmente anche sporche. Molte ne vedremo in vista di Expo 2015. Chi avrà la bontà di acquistare il mio libro Economia Criminale per l'ultima settimana in edicola leggerà ad esempio di un'operazione che si chiamava, che si chiama tuttora, Star Wars, in cui nella ricca Brianza accadeva una cosa straordinaria, una buca enorme, profonda, in cui andare a interrare rifiuti pericolosi, poi magari sopra ci si costruiva. E sapete come venivano pagati gli operai? Questa è straordinaria, con la cocaina. Quindi la mafia ci lucrava, l'inchiesta ovviamente è in corso, quindi usiamo il condizionale, ci lucrerebbe anche in una doppia maniera: primo, perché ovviamente fa dei traffici illeciti di rifiuti pericolosi, secondo, perché la cocaina ovviamente viene sempre da canali illegali e anziché pagare comunque in nero, sia ben chiaro, si pagava con la cocaina. Quindi figuratevi voi le ecomafie a che livello di perfezionamento di straordinarie strategie arrivano e giungono. Allora, Cannavò è un caso isolato con l'operazione Star Wars, oppure c'è qualcosa di più? C'è un, come dire, più di un piede messo nella regione? E poi le chiedo che cosa dobbiamo aspettarci in vista di Expo 2015. Non è un caso isolato, l'operazione Star Wars è narrata anche nel nostro rapporto dell'anno scorso, certo. Anche noi seguiamo da vicino le vicende processuali che riguardano la Procura di Monza, e quello è invece, appunto, non è un caso isolato, ma è un esempio lampante insieme ad altre storie narrate in quello stesso rapporto, ma che si sono ripetute nei mesi successivi e quindi sono quelle raccontate nel rapporto Ecomafia 2010, di quello che probabilmente accadrà, vista la situazione, per quanto riguarda le opere connesse o direttamente relative all'esposizione universale del 2015. Esatto, e voi avete avuto un'idea intelligente, molto intelligente, perché io vi rispetto molto da questo punto di vista. È in piedi, sta per partire, ce lo spieghi lei, un osservatorio vostro su questo. Sì, in realtà è un osservatorio che vede il coinvolgimento anche di altre associazioni. Siamo noi di Legambiente insieme a Libera, cartello di associazioni di cui facciamo parte, assolutamente, presieduta da Don Ciotti, certo. Sono anche l'ARCI e la CGIL di Milano, l'idea è che comunque la struttura rimanga aperta a ulteriori contributi, a ulteriori partecipazioni. L'idea a Milano nasce anche così dalla vicenda per noi triste che ha visto affossare nel giro di una mezza giornata una commissione comunale antimafia, che quindi si sarebbe sicuramente dovuto occupare molto di quello che bolle in pentola in vista dell'Expo, visto che l'istituzione da quel punto di vista non ne ha volute sentire. Non ha avuto questa sensibilità. È la società civile organizzata, l'associazionismo che tiene molto, che presidia i territori, che è presente nei territori, che spesso sono quei territori da cui partono le denunce per queste storie di ecomafia, che ha deciso con le proprie forze, cercando di coinvolgere però anche esperti autorevoli, magistrati, ricercatori, professori, certo, universitari, certo, per tenere sott'occhio quello che avviene, elaborare proposte e ricevere appunto, bene, segnalazioni o denunce. Benissimo, ecco, Cannavò, ma di fatto questo osservatorio partirà e sarà operativo quando? E se qualcuno volesse interessarsene, a chi si rivolge? Ma per ora può rivolgersi alle singole associazioni che ne fanno parte. Bene, bene. Io cito il sito di Legambiente Lombardia, bene, citiamolo, dove si possono trovare. Citiamolo, che poi dobbiamo salutare. Che è www.legambiente.org. Benissimo. Allora, grazie a Cannavò e al suo lavoro. Ha parlato ovviamente al suo lavoro. Ciascuno dei due rappresenta chi il Lazio, chi la Lombardia per Legambiente. Grazie a Valeria Coffaro e Laura Fagini in studio e Carmelo Lauricella in regia. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.